le donne rappresentano perlomeno, se non di più, del 50% della popolazione, e quindi sicuramente i loro interessi devono essere rappresentati. Quello che succede all'estero è che ci sono diciamo due principali categorie di regolamentazione che si riferiscono, diciamo, alla quota verso la meritocrazia, cioè la regolamentazione che c'è in Norvegia, che dice che per quota il 50% delle donne deve essere nei consigli di amministrazione, che il periodo di maternità va fatto rigorosamente metà al padre e metà alla madre. E quindi diciamo una regolamentazione in cui semplicemente per il fatto che rappresentano metà della popolazione gli interessi delle donne devono essere rappresentati. Questo, diciamo, si basa sulla logica che se non c'è almeno la metà delle donne che lo rappresenta, allora la metà della popolazione che lo rappresenta, è difficile poi mantenere la parità. L'altro tipo di approccio, che invece è quello tedesco, perché c'è stata una legge recente che si chiama, diciamo, per così dire, tradotta incoraggiamento delle donne alla partecipazione al mercato del lavoro, perché tra l'altro anche la Germania in realtà fino a pochi anni fa, ma ancora adesso, ha una bassissima partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come l'Italia, per ragioni diverse, ma ce l'ha. Le cose stanno molto cambiando per effetto appunto anche di queste regolamentazioni, il cui concetto è invece non quello di creare delle quote, ma semplicemente di creare delle condizioni per incoraggiare la partecipazione delle donne e per permettere una corretta valutazione del loro merito. Io sono decisamente a favore più del secondo approccio, nel senso che le donne devono partecipare non per concessione maschile, ma semplicemente per la loro motivazione interna, perché altrimenti ci sarebbe una distorsione, cioè si avrebbe partecipazione, si avrebbe in sostanza una disparità al contrario, si preferirebbero comunque, come ha detto lei, delle donne semplicemente per quota o perché magari carine o per altre ragioni. Quindi sicuramente in Germania per adesso l'approccio è molto quello del merito, e culturalmente in Germania però c'è anche l'idea della donna che sa fare la madre, cioè quindi non una contrapposizione femminista come negli anni 70, ma la capacità organizzativa, e questo, come dice lei, richiede delle importantissime politiche alla famiglia.